non sfiorirà. Io lo preghierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al fuoco. Oboramo. Solo per te.